Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Solo voi con mi pena, solava mi condena. Correre mi destino, para burlar la ley. Perdido nel corazón de la grande Babilón. Me dice nel clandestino, por no llevar papel. Se l'Europa vuole essere l'Europa, ha dovere di affrontare questo problema tutti insieme. E per noi questo è il piano A, è la soluzione preferita, è la soluzione migliore. Soy una raya nel mar, fantasma la ciudad, mi vida va prohibida, dice l'autorità. Abbiamo salvato centinaia e centinaia di vite nel Mediterraneo, continueremo a farlo, ma contemporaneamente mi sembra ovvio, naturale, doveroso che si trovino delle soluzioni all'altezza della storia dell'Europa. Se così non sarà, noi semplicemente faremo da soli. Siamo in condizioni di affrontare questo problema, questo è il nostro piano B come paese, come Italia, perché siamo un grande paese. Africano, clandestino, marijuana illegale. Ma questa non sarebbe una sconfitta per l'Italia, sarebbe una sconfitta per l'Europa. Che senso ha un'Europa che ci dice tutto dei vincoli economici e di bilancio e lascia morire le persone o pensa di poter chiudere le frontiere? Dunque siamo un bivio. La grande Babilon, venisse nel clandestino. Una cosa io l'ho capita, che il piano B non esiste. Questo è il concetto, almeno finora è tutto sulla carta. Renzi dice il piano A, facciamo tutto con l'Europa. Il piano B, facciamo da soli. Cosa facciamo? Adesso volete sapere troppo, tutto in una volta. Solo voi con mi pena, solava mi condena. Correre mi destino, para burlar la ley. Perdido nel corazón de la grande Babilón. Me dice nel clandestino, por no llevar papel. Vedremo, vedremo che cosa propone Renzi. Secondo i giornali, la strada più possibile per questo piano B è dare pass temporanei, permessi temporanei ai migranti che arrivano, in modo che per 3 mesi possono girare nell'area Schengen. Oh, allora dico io, allora sì che potrebbero attraversare il confine con la Francia, il confine con l'Austria, perché in questo momento, lo ribadisco a costo di essere impopolare, perché siamo tutti tifosi, basta urlare, uno urla di più e pensa di avere ragione, ma la situazione è molto chiara, la Francia ha ragione, continuano a dire il trattato di Schengen, la Francia non ha sospeso Schengen. Se io mi presento a Ventimiglia, posso attraversare il confine. Carmelo Lauricella può attraversare il confine in regia. Alessandro Longoni, che è qui, non lo so, ma forse un controllino glielo fanno, ma poi può attraversare il confine. Uno che viene dalla Somalia o dall'Eritrea o dall'Australia o dal Giappone viene controllato, non fa parte di Schengen. Quindi la Francia, come l'Austria, non sta facendo niente di male. Lo so che è brutto dirvelo, brutti francesi, sporchi, puzzolenti, cattivoni, lo so. in realtà non stanno facendo niente di male. Questo è 24 mattino, eh? Se volete il numero per i vostri messaggi 349-238-6666. Come detto, siamo qui. Il Parlamento può anche aprire se volete. C'è il ministro Boschi. Vado a prendere un caffè, quindi se mai svegliamo. Caffè con Ovo Maltina e Rinforzino, perché ad Arezzo il candidato boschiano e renziano ha preso una mazzata. Hanno perso anche lì. Ecco, cosa c'è di più noioso dell'analisi del dopo voto alle regionali? L'ho scoperto, è l'analisi del dopo voto delle amministrative. 11 pagine sul Corriere della Sera, alla pagina numero 11 c'era il confronto nell'articolo di Verderami tra Renzi e Kadima. Kadima, una cosa che capiscono in due in Italia. Kadima è un partito israeliano. Ecco, a questo confronto io ho detto basta. Ma ci aiuterà tutto a capire tutto Marione Adinolfi, uno che vive di queste cose, uno che si nutre di queste cose. Buongiorno, come fai a non apprezzare il parallelo verderamiano con Kadima? Capisco che i giornali sono per incartare, però No, capisco, però un italiano dovrebbe innanzitutto andare sulla mappa geografica a capire dov'è Israele. Poi dovrebbe capire un attimo che cosa sia Kadima all'interno di Israele. Sì, vuol dire gli italiani sono ciucci. No, beh, insomma, ma dai, scusa, ma io adesso vado in metropolitana e chiedo a 100 persone che stanno andando a lavorare che cosa sia Kadima. In 5 come minimo gli danno un pugno in faccia pensando che li abbia insultati. Servono a formare anche, diciamo, gli italiani e far venire loro la curiosità di sapere dove colloca, diciamo, il partito Kadima. Ecco, va bene. Adesso comunque ci aiuterà tutto a capire tutto buon Marione. Insieme al nostro grandissimo Vincino, c'era anche una canzone per te, ma stavolta non ce l'abbiamo. Vincino, niente, era Vincenzo, io ti ammazzerò. Sei troppo stupido per vivere. La canto io, perché c'è Carmelo Lauricella e non era pronto. Israele lo so dov'è, guarda, tu lo sai dov'è. Nel mio cuore, metà degli italiani lo sanno dove è Israele. Sì, ma voi Kadima. I cinici del nord non lo sapete, ma noi sappiamo dove è Israele. No, vabbè. Ma Kadima. E io siciliano posso fare, do ragione a te, io siciliano posso passare e posso ritornare. Oh, esatto. Tu siciliano puoi andare a Monte Carlo, puoi tornare. No, ma tra poco ne parliamo della questione dei migranti. Prima però c'è, come dire... Io ho sempre pensato una cosa, non so se Marione Adinolfi è d'accordo con me, che il Movimento 5 Stelle sia un movimento fatto per... Smettila. Ma sì, dai, dicono in 4 paesini su 120. No, cioè, smettila. Ma che minchiata dicono. Smettila. Volevo partire da Mario Adinolfi per arrivare appunto per arrivare al tuo lutto nella tua Sicilia, al tuo lutto. Ma quale lutto? Ma sì, sei un po'. Gela è la città più inquinata del mondo, guarda. Lascia perdere, aspetta un attimo. Secondo me, il Movimento 5 Stelle è fatto per governare soprattutto comuni, regioni, cioè a livello locale, a livello amministrativo. Tu, Marione Adinolfi, che ne pensi? Aspetta Vincenzo, tu che ne pensi, Marione? Ma una cosa che mi interessa di questa vicenda 5 Stelle è che hanno vinto tutti i ballottaggi qui che arrivano. Questa è una cosa molto interessante. Dove c'era il ballottaggio? Chiunque contro 5 Stelle ha vinto 5 Stelle. Perché loro vanno a votare, perché loro vanno a votare tutti, non è che vanno al mare. Perché abbiamo appena fatto una legge elettorale nazionale che prevede il ballottaggio tra i primi due soggetti. Quindi questa cosa, insomma, un campanellino d'allarme lo fa. Ma infatti oggi Di Maio su Repubblica dice è buono questo Italicum. Mi piace questo Italicum. Bravi, è perché l'Italicum è stato cucito e scritto addirittura per, diciamo, per marginalizzare il 5 Stelle, che è della, diciamo, della teoria doveva arrivare terzo e quindi essere escluso dal ballottaggio, che la destra aggregata avrebbe sicuramente battuto il 5 Stelle. Però attenzione, se il 5 Stelle riesce a far capire all'Italia che arrivando secondo potrebbe essere la reale alternativa in una partita di ballottaggio, ecco, io quel ballottaggio non lo darei per certo. No, infatti. Vince. Ma veniamo al lutto. Il lutto di un uomo siciliano che vede la sua Sicilia conquistata per... Ma quale... per larghe fette dal Movimento 5 Stelle. Quali larghe fette? Dai, tre paesi. Ma dove sei andato a votare? Cinque hanno vinto. No, non è vero. Ma quale dove sei andato a votare? Sei andato a votare in molti più paesi, dai. Vabbè, però Augusta, Gela. Ho capito, ma aspetta, scusami, guarda. Allora, quante sono le città? 20 città siciliane si è votato. Ecco, in 20. Ma dove sono andate i ballottaggi? Dove sono andate i ballottaggi? Ho capito, ma per arrivare ai ballottaggi, come dire, sono tante città in cui non sono arrivate ai ballottaggi, non sono arrivate a nulla, cioè non sono arrivati manco al 10-15%, sì. Per favore. Loro avevano preso in Sicilia il 25%. Alle regionali, dai, è stato un disastro per loro. Disastro, per ma sì, ma scusa, loro la volta, due volte fa hanno preso Parma, quella è la città importante. Sì, certo, Parma, certo. No, allora che cosa hanno preso? Hai qualcosa contro Gela? Hai qualcosa contro Gela? Gela la conosco perfettamente. Gela è la città dove sono stato arrestato. Porca miseria, sì, Gela, ho vissuto a Gela. Ecco. Mi alzavo la mattina e l'aria era viola, rosa, verde, a seconda che cosa producevano all'anici di Gela. Ma senti, sono ma stato quando un anno a Gela. Quando... La conosco perfettamente. Certo, guarda. Ma sei stato arrestato. Se uno ogni paese, se non ci fosse meglio fosse, così dicono loro stessi di loro. Se, no? Cioè, se non ci fosse meglio sì, sarebbe. Questo... È un proverbio genese questo qua, per dirti che ma loro com'è il proverbio? Com'è? Che dissi uno ogni paese, se non ci fosse meglio fosse. Ma lì è dove, quando sei stato arrestato, quando volantinavi, che poi sì, ti hanno portato, sì, vendevo dentro il giornale, vendevo il giornale, il processo Valpreda addirittura. No, vabbè, ma ecco perché Valpreda. Ce l'hai con Gela, te, ti ricorda, no, delle cose brutte. Gela, no, io l'amo Gela assolutamente, però è una città, come dire, una città che l'80% è totalmente, come noi, illegale, praticamente sì, costruita in maniera illegale, no? È la città che ha dato il politico più nulla facente del mondo, cioè Crocetta, sì. No? Praticamente, dico, ecco qua, no, come dire. Vabbè, non, poi è una città meravigliosa, insomma, io l'amo, c'è la mia vita là, in parte, insomma, però, come dire, vabbè, che sia questa... Questo faro di civiltà. Ma cosa c'entra di civiltà? Hanno vinto. Allora, vabbè, niente. No, comunque la questione è questa. È un campanello d'allarme, Marione. Ma no, aspetta, per Renzi, la questione, per esempio, di Arezzo. Renzi, sì, Renzi, ecco. È un disastro oramai. Renzi è arrivato alla fine. Un disastro. Sì. Poi Renzi con la storia dell'Eni è la schifezza più schifezza del mondo. Renzi usare l'Eni come casa sua, no, e nominare lui dirigente e mettere pistelli all'Eni è una cosa vergognoso. Vabbè, capisci, Marione, si è svegliato così. Vincino, ogni tanto le deve dire tutte. No, vabbè, adesso al di là di, adesso ci arriviamo a pistelli, no, che la gente poi non capisce, metti tutti insieme. Allora, Arezzo persa, Venezia persa, e pare che Renzi abbia detto alla minoranza del PD, questo nei suoi dialoghi che filtrano sui giornali, avete perso voi, quindi è inutile che state, no? Perché Casson è uno anti. Marione, vabbè, è in difficoltà Renzi. La scelta di Casson l'ho trovata complicata, la scelta delle primarie, questo va detto, per cui è emerso dalle primarie, ma mi sembrava una candidatura complessa. Civadiano, magistrato di sinistra, evidentemente, come si dice in questi casi, divisivo, insomma, da tanti punti di vista, contro un esponente sostanzialmente moderato proveniente dal mondo di Confindustria, al ceto produttivo, sì, in un luogo dove la politica non ha dato la miglior prova di sé, diciamo, sì, che Venezia uguale Mose, insomma, per cui la condizione era francamente difficile, non capivo chi dava favorito. Sì, uno che ha vinto, tra l'altro, Brugnaro, che dice io non sono di centrodestra. Sì, sì, ha detto festeggeranno i renziani con me, in effetti più o meno sembra che è andata così la storia veneziana. Renzi perde le amministrative, io direi che questa, vedo molta enfasi su questo dato delle comunali, non ne ho sentita meno sul dato delle regionali, che era veramente quello pesante, perché perdere la Liguria, che è una regione tradizionalmente rossa, insomma, è vero che a Venezia avevano vinto per 20 anni consecutivamente, da quando c'era l'elezione diretta dei sindaci, c'era il centro-sinistra a Venezia. Però insomma, il dato ligure mi è sembrato molto più significativo. E anche il dato veneto, perché il dato veneto l'abbiamo un po' sottovalutato. Ma, no, ma infatti. Ma lì ha perso i 30 punti. La candidata, la Moretti. Sentite Brugnaro, però. Brugnaro a Venezia, poi vi faccio sentire anche il Brunetta del giorno, che mancava da un po' il Brunetta del giorno. Brugnaro. Noi siamo stati appoggiati da persone che vogliono cambiare, e nell'urna c'è di tutto. Nell'una c'è di tutto, avranno votato per me anche ragazzi che votano Grillo, persone che votano Grillo. Anche ragazzi che votano Grillo. Questa invece è Brunetta. Brunetta rialza subito la testa. Lui che a Venezia, se non sbaglio, fu sconfitto in maniera secca, no? Le ultime, le precedenti, sì, come da Orsoni. Renzi fa lo struzzo come sempre, butta la testa sotto la sabbia. È anche uno struzzo spudorato, nel senso che dice su Venezia non ho perso io, ha perso un non renziano. Questo è inaccettabile anche dal punto di vista etico oltre che politico. A Venezia ha perso il PC, PDS, DSPD. PC, PDS, DSPD, capito Vincino? Hanno perso il disastro. Vabbè, tu dici Renzi disastro, alla fine addirittura. Alla fine di che? È un disastro, sì. Ma tu hai scritto la cavalcata di Renzi sei mesi fa. No, un anno fa. Esattamente a un anno. Esattamente a un anno, è un anno, è sceso da cavallo, è un disastro. Su questa storia del piano B che hai detto tu all'inizio, no? Sì. Là è che hanno ragione i francesi, perché in Francia ci sono i socialisti. Hanno ragione, perché sbaglio? No, in Francia ci sono i socialisti, quelli veri, e là, questo è il punto, è di sinistra quello che sta facendo la Francia in realtà, no, è di destra imbrogliare come abbiamo fatto noi, non li identifichiamo, bravo. Che errore è? Come dire, non sai identificare 10.000 persone, ma per favore, bravo, dillo. Non stanno facendo niente di male i francesi, stanno controllando se uno passa la frontiera e viene, che ne so, dall'Eritrea, ti controllano. Perché hai diritto a essere profugo qui? No, allora. Ha perso allora il Renzi che si appoggia ad Alfano, che fa il furbo, che è un imbroglione nato, che è un disastro umano totale. No. No, della cosa. Ha perso il Renzi che si appoggia ad Alfano, e in questo momento il Renzi è debolissimo. Non ci vuole niente a farlo vedere. Basterebbe l'amico nostro che sta al telefono, quello là, che con la carta, una volta che il suo quotidiano non va più di carta, allora ci incarta le cose e vabbè, dai. Ma Di Dolfi, io che lavoro in un quotidiano serio che funziona come il Foglio, ce l'ha con te, Di Dolfi, digli qualcosa. Ma lui incarta cosa? Ma digli qualcosa, ma cosa c'entra? Ma in carta, ho capito, ma salvito, porca miseria. Ma poveraccio, ma che deve fare? 2 anni devi stare in edicola, minimo. Adinolfi, ma io ho offerto un contratto meraviglioso, io per fortuna non ho accettato. No, ma non è vero, no, adesso che cosa state dicendo? Sì, è vero, Dio. Ma Marione, volevi Vincino, volevi strappare Vincino al Foglio? No, non sarei stato in grado di competere. La cosa sarebbe stata impossibile. Però il problema dato... è che è vero, aspetta che Vincino, durato. Aspetta. Sì. Il dato interessante è che credo sia sul Renzi, poi discutiamo di Croce Foglio, che è stato un derby abbastanza interessante. Ammetto la vittoria sopra di Sciarpe, insomma, questo è evidentemente. Vabbè, è un po' come Barcellona Juve, sono più forti. Si gioca così, però c'è tanto cuore. Il dato interessante credo che sia un Renzi sicuramente sottotono in questo momento, ma non per niente, perché continua a considerarlo centrale rispetto alla partita. Non fosse altro perché le opposizioni sono divise in due, questo è l'elemento fondamentale della possibile diciamo così condizione di vantaggio renziana, perché se tu devi giocare con un'opposizione unita e in questo momento potresti perdere, ma per cui giochi contro due opposizioni, una è uguale a quella grillina, l'altra è un centrodestra ancora diciamo in stato di dissoluzione, perché gli accenti di vicino Solfano sono spesso gli accenti che usa pure Salvini, quindi il Salvini non si può unire col nuovo centrodestra, di mezzo c'è un po' di comunque. Ma no, centrodestra è nulla, allora, è nulla. Messe così non hanno diciamo la condizione di sbalzo per poter dire in questo momento è. Dice, però ci dice il centrodestra è nulla, ci dice Vincenzo. No, il centrodestra di Alfano è nulla. Di Alfano, Forza Italia, Forza Italia più Salvini sono più di Renzi in questo momento qua. Sì, sì. Sono solo il 30%, dai. Vabbè, ma sì, poi si vedrà, mamma mia. Non è il 30%, dai. Si vedrà, però no, vorrei capire da Dinolfi se fa bene, se facciamo bene a difendere la Francia io e Vincino oppure no. Siamo un po'. Non lo so, la Francia persegue l'interesse nazionale, ecco, questo è l'elemento che secondo me bisogna avere chiaro. È giusto nella dimensione europea mettere al primo posto l'interesse nazionale? A questo punto interrogativo dobbiamo rispondere. Cioè, fa bene la Francia a dire prima di tutti i fatti miei? Allora, noi io credo che siamo molto esposti, evidentemente per ragioni geografiche e anche per le nostre, diciamo così, lacune, debolezze a questo flusso che è mostruoso e diventerà quest'estate terrificante dal punto di vista numerico. possiamo farci fronte davvero da soli a questo tipo di flusso? Non lo so, è piano B, ma certo che riguarda l'Europa. In termini assoluti, no. Io dico, allora l'Europa non esiste, allora l'Europa non c'è. Per riguardare l'Europa dovevamo andare in Europa e dire le navi inglesi che intervengono non li portano in Italia, e invece abbiamo accettato tutto, e adesso la Francia non sta facendo niente di male, cioè non ha sospeso Schengen. Persegue l'interesse nazionale. Ora, se tutti nella dimensione solidaristica europea, della dimensione solidaristica se ne fregano, dicono la cosa importante è l'interesse nazionale, l'affermazione è di per sé contraria all'elemento solidaristico europeo. Vuol dire che l'Unione Solidale Europea non c'è. Ma uno è solidale se c'è il rispetto delle regole, cioè uno è solidale se si rispetta le regole. Ricordo che la Francia riceve e accoglie tipo 4 volte il numero dei rifugiati l'anno rispetto all'Italia, il quadruplo rispetto all'Italia, ma lo fa nel rispetto delle regole. Comunque devo andare a dare le informazioni sul traffico e poi ritorniamo con Vincino e Marione Adinolfi, direttore della Croce Online. Croce. Vincenzo, io ti ammazzerò. Sei troppo stupido per vivere. 24 mattino. Io avrei un'idea, visto che Alba Parietti dice che vuole aiutare questi profughi che arrivano, con quei due canottoni che si ritrovano, perché non affianca la missione Triton? Una cinquantina più o meno ci stanno. Propongo la candidatura dell'Italia al premio Nobel per la pace per l'opera di salvataggio, accoglienza e assistenza svolta da anni nel Mediterraneo in favore dei profughi e dei migranti. Grazie. Alessandro Milan, io ti ascolto tutte le mattine, ma sai cosa mi fa incazzare di te? Quando i radioascoltatori parlano e te ti focalizzi solo sulle tue idee e non apri la tua testa. Devi imparare ad aprire la mente anche tu. Non ti focalizzare solo sulle tue idee. Ascolta i tuoi radioascoltatori, perché noi ti ascoltiamo. Comunque ciao, Ciao anche a te, caro ascoltatore. Vedi che ti ascolto, insomma. Adesso, devo... Non so, però posso rimanere del mio pensiero se su alcune cose non andiamo d'accordo. Non so, Vincino, posso rimanere della mia idea? Se assolutamente no. Sì. Poi un ciao non lo si nega a nessuno, Allora, senti, è tutto pronto? Sabato, cosa fate sabato, Marione Adinolfi? Facciamo una manifestazione a Piazza San Giovanni. Piazza San Giovanni. È una cosa difficilina da riempire, quindi vediamo quando a che ora? Alle 15.30, sole cocente di Piazza San Giovanni. E che fate? La storica piazza della manifestazione, delle manifestazioni anche di sinistra, diciamo così, si raduna il popolo. Così, insomma, molti sono letto di Santa Croce, molti vengono dal mondo cattolico, molti vengono per a dire difendere che... le questioni, insomma, che hanno a che fare con l'avanzata di quella che noi chiamiamo ideologia gender nelle scuole, e a protestare contro il DDL Cirinna sulle unioni civili. Fate il contro Gay Pride, dai, su, il contro esagerato. Non mi troverete con, diciamo, un carro del con delle pagliette, insomma, contro la filosofia gender. È stata una bellissima scena in cui una sorta di travestito urlava il mio nome e tutti quanti sotto erano invitati a mandarmi a fare in culo. Era una scena molto carina. E secondo te in tanti ti mandavano a fanculo lì? Erano quelli che Come facevano? Mario Adinolfi e tutti. Ma e questo era già surreale, col parruccone viola. C'era anche Vincino, secondo me. Questa cosa non la faremo noi. Non replicheremo. Tu, Vincino, non saresti stato lì sotto quel carro. Marione Adinolfi! Adinolfi no, però c'ero. C'eri? Sono tutti amici miei, sì, c'eri al Gay Pride. Ma io abito in Gay Street, scusa. Io non so dove abiti. Non dare la via, peraltro. Che poi... Vabbè, non andiamo alla strada, là vicino abito, dai. Là vicino. Vabbè, e invece sabato non ci vai da... Non lo so, mi ha invitato, ora vediamo. Vabbè, dai, invitato, sono tutti invitati adesso, non è che ti devi arrivare a casa il cartoncino. No, ma la so la prima volta ora, come dire, non e lo sai, vedi, noi diamo delle notizie. Ma no, perché il foglio era scritto, quindi insomma, il foglio era scritto più volte. Ah, non leggi il foglio, Vincino, fai solo le vignette per il foglio. Ma attenzione, dai, è il momento di lui che scrive non la scrive lui, uscirà la biografia ufficiale del premier ex Silvio Berlusconi, autore Alan Friedman, titolo della biografia My Way. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. For many years, many journalists have asked me to tell them my life story. I have always refused. I agreed to cooperate with Alan Friedman because I trust him. As Steve Jobs said to his biographer, I will tell you my story. You will write what you like. Ragazzi, questo è l'annuncio ufficiale in una lingua, cioè in inglese, di Silvio Berlusconi. Vincino, voto all'inglese. Pure lui in inglese? Abbastanza. Lui sa più il francese. Lui sì che quei francesi avrebbe risolto in due minuti. Andava lì, gli cantava due. Fatto lo spottone, possiamo tornare a dormire. Ma dai, lo spottone era bella da far sentire. L'annuncio ufficiale di Silvio Berlusconi. My Way si intitolerà. Scritto da Alan Friedman. Tu la leggerai, Marione? Attenti, My Way è la canzone di un moribondo. Questo insomma com'è? No, I'm facing the final curtain, dice la canzone. Certo. L'ultimo palcoscenico, l'ultimo sipario. Ora il non so se l'ha capita bene, l'inglese non mi sembra un po' sofficante. Fategli la traduzione della canzone prima, perché altrimenti. Però devo dire che Friedman con Adinolfi farebbero una bella coppia. Friedman Adinolfi? Sì, taglio olio, perfetti. Eccolo là. Taglio olio, tutti e due olio. Esatto. Tutti e due olio. Esatto. Oggi Vincino no, devi andare anche a leggere il foglio, devi lì leggere meglio il foglio. Dai, alle 15.30 se volete andate sabato a Piazza San Giovanni, giusto? Caro Marione, Piazza San Giovanni. È grosso. Potete anche urlargli Forza Barcellona! Davanti, va bene? Possono? No, non posso. Vabbè. Vi ringrazio, vi saluto con My Way, Vincino e Mario Adinolfi. Alla prossima. I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Il segnale orario vi è offerto da... Con la rete Interplanet, il tuo business cresce alla velocità della fibra. Interplanet.it. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta... 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Allora, cari ascoltatori, parleremo di immigrazione anche oggi, d'altronde è uno dei temi più importanti, la disfida Italia-Francia. Avremo ai nostri microfoni Cecilia Strada, presidente di Emergency, avremo Piero Stellino, editorialista del Giornale, Capiremo anche come va in Germania. Avremo anche però ospite uno dei sindaci che ha vinto in Sicilia del Movimento 5 Stelle. Si tratta del neo sindaco di Gela, ai nostri microfoni alle 8.40. Un buona pace di Vincino, che saluto, al quale mandiamo un abbraccio. Allora, questo più avanti, eh. Intanto andiamo a leggere i giornali che trovate in edicola. In questo martedì 16 giugno, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore dedicata alla Grexit. Grexit spaventa le borse, vola lo spread BTP Bund. Dicevamo ieri che le borse erano molto attese dopo il fallimento dei negoziati, eh? Poi c'è chi sceglie i migranti, lite Italia-Francia, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera, e chi invece ovviamente il dopo elezioni amministrative. Anche il Messaggero mette migranti, ultimo avviso all'Unione Europea come titolo di prima pagina, mentre le elezioni su Repubblica, anche la Sicilia punisce il PD e Grillo vince 5 ballottaggi su 5. Libero e il Manifesto hanno più o meno lo stesso titolo. Il Manifesto mette la foto di Renzi e il titolo è "Stai serenissimo". Ovviamente si riferisce alla sconfitta di Venezia, la Serenissima, e così anche Libero. Renzi sta serenissimo. Evocano anche il celebre Enrico "Stai sereno", no? Che disse Renzi a Letta. Il Fatto Quotidiano, tutti contro Buzzi. Sì, perché ho letto Buzzi? Tutti contro Renzi, perché c'è un articolo di Buzzi che ho davanti e allora ho messo insieme le due cose. Tutti contro Renzi, questo è il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano. Il Giornale, scatta il piano B, Renzi a casa. Mentre la Stampa ha un colloquio con Renzi, è un'intervista del vice direttore Massimo Gramellini: col Renzi 2 non si vince, devo tornare il Renzi 1, basta primarie nel PD. E questo lo vedremo, perché è interessante, dice tante cose interessanti il Presidente del Consiglio in questa intervista alla Stampa. Prima però voglio partire da che cosa? Lo certifica l'Istat, lo certifica con numeri impietosi, quello che è sotto gli occhi di tutti: gli italiani non fanno più figli. Italia senza figli è il record del secolo, record ovviamente negativo. L'Istat dice nel 2014 più morti che nati, non succedeva così dai tempi del 1918, la grande guerra, dove lo squilibrio tra morti e nati era dovuto ovviamente al fatto che morivano tante persone in guerra. Il paese è a crescita zero. Michele Smarciassi su Repubblica, pagina 27, solo la grande guerra svuotò le culle più di ora. Fa sapere l'Istat che nel 2014 in Italia la differenza tra nati e morti, cioè il saldo demografico naturale, ha sfiorato quota meno 100.000, un record. È la forbice più alta dal 1918. Oggi non è che si muore di più, anzi la mortalità è in leggera diminuzione, è il disinvestimento sui figli che allarga questa forbice. Ormai la voglia di fare prole frana costantemente dal 2008. Il bilancio demografico nazionale rilasciato ieri dall'Istat ha la forza delle cifre nette: 502.596 neonati l'anno scorso, il 2,3% in meno rispetto al 2013. Altro che crescita zero, è decrescita sotto zero. Solo a Trento e Bolzano ci sono più nascite che funerali. Certo, la crisi economica, il mutamento dei costumi, i progetti familiari cambiati, c'entra pure il contraccolpo del baby's boom. Sono in età fertile oggi i figli dei primi cali demografici degli anni Ottanta. Meno bambini allora, meno potenziali genitori oggi. Insomma, tutta l'analisi, ma l'Istat impietoso, anche il Giornale dedica a questo una pagina: culle vuote e frontiere aperte. Il Giornale mette insieme le due cose: boom di stranieri italianizzati. Per la verità l'Istat certifica che anche gli stranieri fanno meno figli rispetto al passato. Calano le nascite nelle famiglie degli immigrati. Nel primo decennio del millennio i bimbi multicolori, scrive Repubblica, riempivano le sale parto, compensando in parte la minore natalità delle famiglie italiane. Ora l'aria è cambiata anche qui. Si fanno meno figli anche tra gli stranieri. È crescita sotto zero. Oh, interessante vedere come i giornali pongono una vicenda che riguarda il celebre scrittore Roberto Saviano. Accusato di plagio da una editrice, da un editore, l'editore Libra, che edita alcuni giornali, Cronache di Napoli e Corriere di Caserta, giornali con i quali Saviano dice non voglio avere niente a che fare che venga mai accostato il mio nome. E perché per la vicenda annosa del libro Gomorra questi editori hanno detto ha copiato almeno pari pari tre articoli nel suo libro senza citarli, e c'è stata una causa che è finita in Cassazione, perché è interessante vedere come i giornali la pongono. Guardate un po', il Fatto Quotidiano dice che la Cassazione dà ragione a Saviano. Repubblica: la Cassazione ha accolto il ricorso di Saviano, quindi Saviano ha ragione. Prima pagina del Giornale: la Cassazione certifica, Saviano è un copione. Ma come? Ma in Italia è così, uno più uno non fa due, e neanche una sentenza della Cassazione è una sentenza che mette d'accordo tutti. Secondo Repubblica, lo scrittore Roberto Saviano e la Mondadori, che hanno pubblicato Gomorra nel 2006, hanno ottenuto una vittoria in Cassazione contro la casa editoriale Libra, che aveva avuto in appello 60.000 euro di risarcimento per tre articoli riprodotti nel libro senza indicazione dell'autore. Ad avviso della Cassazione è evidente che in questa causa non era in discussione l'originalità e la creatività del libro Gomorra, ma solo il plagio di alcune sue parti, quantificate dello 0,6% di un libro di 331 pagine. Dunque, secondo la Cassazione, i 60.000 euro liquidati in appello non devono essere dati. Eppure, tre articoli plagiati in Gomorra, Saviano per la legge è un copione. Questo è il titolo del Giornale. Effettivamente, se la volete vedere, i 60.000 euro non sono da dare, però questi tre articoli ci sono in Gomorra. Vabbè, vedete come ci si divide, ognuno poi la pone come vuole. Pare, secondo il Messaggero, che possano arrivare buone notizie per Ignazio Marino, nel senso che nella commissione che ha consegnato 1000 pagine di relazione al prefetto Gabrielli, in questa relazione non ci dovrebbe essere, secondo il Messaggero, nella relazione dei prefetti, i margini per lo scioglimento per mafia. Cioè, sembra allontanarsi l'ipotesi che il Campidoglio venga sciolto e commissariato per mafia. Certo, c'è molto di brutto in questa relazione, ma l'associazione mafiosa, sarebbe scritto in questa relazione, non riguarda la giunta attuale. Ma sulla questione di Roma mi ha colpito ciò che scrive in prima pagina di Libero Franco Bechis, certo un articolo anche un po' di colore. Io dico Franco Bechis, in realtà la firma è Fosca Binker, ma insomma è sempre lui che usa degli pseudonimi. Pagina 13 di Libero e prima pagina: che succede? Chissà se l'idea è venuta a Marino leggendo le intercettazioni quando si dice se mangiamo Roma. Sta di fatto, Ignazio mangia bene, parte il nuovo bando per la mensa nuova con ricette da gourmet all'interno della buvette del Campidoglio. È l'analisi del bando di concorso per il nuovo servizio di ristorazione al quale possono accedere i consiglieri comunali, gli assessori, la giunta. Ebbene, si leggono alcune cose, ma per carità, dal punto di vista dell'alimentazione corrette, cioè chi vuole accaparrarsi la mensa del Campidoglio deve garantire che la frutta sia consegnata solo frutta di stagione e verdura solo di stagione, o quantomeno deve essere, come dire, reperibile quel mese, e quindi la freschezza deve essere mensile. Quindi a giugno asparagi, barbabietole, cavolfiori, cetrioli, coste, fagiolini, finocchi, funghi, insalatine di taglio, melanzane, peperoni, piselli, pomodori, rapanelli e zucchine, ma da luglio spariscano per favore asparagi, finocchi, cavolfiori e barbabietole. In compenso si devono trovare le coste e la zucca, e così via di mese in mese. Insomma, ogni mese ha la sua frutta e stagione. Oppure sono stabilite le caratteristiche perfino delle tazzine da caffè, ceramica o vetro, a seconda delle miscele, e anche da cappuccino le tazzine, così come per gli infusi di ogni natura. La miscela di caffè ha regole rigidissime. Può essere arabica, robusta o canefora. Nel caffè macinato la granulometria deve essere omogenea e non troppo fine. Questo nell'appalto, e via via. Insomma, una mensa da gourmet, scrive Libero, è quella che Marino sta facendo preparare. Poi c'è tutto l'elenco dei formaggi, quelli accettati, quelli non accettati, l'elenco delle marche, per fare una mensa all'altezza, per l'appunto. Vabbè, Siamo all'articolo che ci fa pensare di questa giornata. A proposito di caffè, appoggiate le tazzine del caffè bollente in questo momento e tenete le mani ben strette sul volante se state guidando. Come sempre in treno, posizione d'atterraggio d'emergenza. Eccoli qui, gli Indignados. In Spagna, che hanno trionfato, hanno conquistato Barcellona. Sono diventati con anche Madrid, sindaco di Madrid e sindaco di Barcellona. Primo problemuccio, hanno dovuto dimissionare l'assessore alla cultura appena eletto, Guillermo Zapata. Siamo a Barcellona. Perché? Perché sono andati a vedere nel suo passato qualche tweet su Twitter, qualche dichiarazione come questa. Come metteresti 5 milioni di ebrei in una 600? In un posacenere. Ecco, questo è uno dei simpatici tweet di questo signore, assessore alla cultura degli Indignados, Guillermo Zapata, ma poi ne ha fatti anche altri. Si conferma che l'ETA, oltre che criminale, era idiota, con la quantità di simpatizzanti alleati che aveva, non è stata capace di prendere il potere, e questo sicuramente è più sfumato rispetto a quello antisemita e volgarissimo sugli ebrei, twittato e letto prima. Poi ce n'era un altro su una vicenda complicata di cronaca nera in Spagna che non vi sto a dire perché tanto non la capiremmo visto che non sappiamo quella notizia. Va bene, comunque Alessandro Oppes racconta su Repubblica: tweet antisemiti, esordio con scandalo per gli Indignados, costretta la neoassessore, la neosindaca Carmenia a far dimettere un assessore per le battute sugli ebrei. Ale! Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da Fujitsu World Tour, 23 giugno Milano. Partecipa anche tu. Alessandro Power, Milan! Pura energia al mattino. Insomma, energia, energia. Ce la si mette tutta, caro ascoltatore. Allora, le elezioni amministrative, che cosa hanno sancito? Alla lettura dei giornali tutti fanno un'analisi dicendo che Renzi è un po' in difficoltà, il Partito Democratico. Il Sole 24 Ore titola, pagina 7... Persa anche la Sicilia, Renzi, basta mediazioni. 5 ballottaggi su 5, dove è andato il Movimento 5 Stelle, ha vinto il Movimento 5 Stelle. E poi in Sicilia persa anche Gela, dopo le sconfitte soprattutto di Venezia, è quella più importante, con Felice Casson che è stato battuto dal neosindaco Luigi Brugnaro. E tra poco vedremo la sconfitta anche ad Arezzo, Arezzo dove c'era il candidato Arezzo, la città del ministro Maria Elena Boschi. Matteo Bracciali è stato sconfitto dal candidato di centrodestra Alessandro Ghinelli, che è diventato il sindaco di Arezzo. Il centrosinistra ha vinto a Lecco, Mantova, Macerata, Trani, ma ha perso appunto le città citate, ha perso anche a Rovigo, ha perso a Enna, dove il candidato controverso, perché il PD gli aveva ritirato addirittura il marchio, Mirello Crisafulli, quello che diceva vinco anche con il sorteggio, ha perso nella sua città. Sta di fatto che battute d'arresto, e Renzi se ne rende conto. Infatti su tutti i giornali c'è questa retroscena di Renzi che dice ai suoi: basta mediare, devo tornare a fare Renzi, basta occuparmi della questione della opposizione del partito, devo cambiare le cose. Su Repubblica addirittura c'è scritto nel retroscena a pagina 2 a firma Francesco Bei, che anzi scusate, firma Goffredo De Marchis, pardon, farò un partito modello America, modello USA. Renzi che dice basta con le primarie, ci vuole un partito più Obama e meno Mastella o Paglietta, cioè un partito che non deve vivere sui pacchetti di voti e nemmeno sulla diffusione capillare che portò il Partito Comunista a essere fortissimo, tanto da sfiorare la maggioranza relativa. E confida poi ai suoi: l'Italia è un paese di destra. Tutto questo Matteo Renzi lo mette in un colloquio con La Stampa. È Massimo Gramellini, vice direttore della Stampa, che intervista e fa questo colloquio con Matteo Renzi. È il titolo di prima pagina. Dice cose interessanti il Presidente del Consiglio. Con Renzi 2 non si vince. Devo tornare al Renzi 1. Cioè devo infischiarmene dei Da Torre e dei Fassina e riprendere in mano il partito. E poi conferma alla Stampa, al Presidente del Consiglio: una cosa è certa, le primarie sono in crisi, dipendesse da me la loro stagione sarebbe finita. I candidati non li ho scelti io. Casson, Paita, De Luca, Emiliano, Moretti. Io in quelle scelte non ho messo bocca. E hai fatto male, sembra suggerirgli all'orecchio Renzi 1. È tutto giocato questo articolo, questo colloquio, sul fatto che ci sia un Renzi 2 e che però non sfonda, non piace, e un Renzi che dice devo tornare a Renzi 1, quello che decide un po' le cose. D'altronde non ho messo bocca perché pensavo che astenermi fosse un presupposto per stare tutti insieme. Poi ci siamo dimenticati di cosa dicevate di me, l'arroganza al potere, la democratura. Ah, ma adesso basta, si cambia, anche perché tra un anno si vota nelle grandi città: Torino, Milano, Bologna, Napoli, forse Roma. Roma? Eh sì, se torna Renzi 1, fossi in marino non starei tranquillo. Ecco cosa dice Renzi, confermando le indiscrezioni che già sul Foglio c'erano un paio di giorni fa, cioè che Renzi avrebbe deciso di fare dimettere Marino dopo le vacanze. E sentite ancora Renzi cosa dice alla stampa. A Venezia mi è venuto incontro un signore, mi si è presentato, ha detto: salve, sono l'unico renziano della città. Era Brugnaro, il candidato che ci ha battuto. E questo è un paese moderato, vince chi occupa il centro con personalità. La verità, ancora dice Renzi, è che ormai la gente vota come le pare sulla base della persona. Insomma, tante cose interessanti. Non ho scelto io i candidati, Brugnaro e renziano, e poi forse si vota a Roma, così dice Renzi alla stampa. Fossi in marino non starei tranquillo. Ecco che allora fa un po' il verso al titolo che invece fanno nei confronti di Renzi sia Libero che il Manifesto. Stai serenissimo, giocando sulla sconfitta di Venezia, la Serenissima, e sul suo famoso stai sereno. Certo, fa specie sentire Renzi dire: mi è venuto incontro un signore, mi ha detto sono renziano, piacere, a Venezia, ed era Brugnaro. Certo che lo stesso Brugnaro, nella sua prima giornata da sindaco a Venezia, ha fatto di tutto per smarcarsi un po', intanto dai partiti e anche dal centrodestra. Guardate qui Marco Cremonesi, pagina 9 del Corriere della Sera: uomo del centrodestra, informazione falsa. Così dice Brugnaro: la mia è un'esperienza civica. Nessuno appartiene più a nessuno. Insomma, scrive il Corriere, per i Brunetta e gli Alfano, prontissimi a mettere cappello sulla performance di Brugnaro, sarà un lavoraccio intestare ai rispettivi partiti il merito dello sfratto. Abbiamo vinto le elezioni, dice Brugnaro, col sindaco, la mia lista prende 18 consiglieri. Secondo voi io sarei schiavo dei partiti? Durante la campagna elettorale c'era un partito che diceva cosa voleva fare, era la mia lista. Insomma, Brugnaro che dice, e ha aggiunto anche, a me piace Renzi, ha confermato, non sono di destra, non sono schiavo dei partiti, staremo a vedere. Intanto perde anche ad Arezzo il Partito Democratico, nella Arezzo, come scrive il Corriere con Francesco Alberti a pagina 6, che è la città di Maria Elena Boschi. Lo shock del pupillo boschista, così viene già definito tra virgolette, rottamato da un ex assessore moderato, il candidato Dem dice: ho perso per le beghe nazionali del PD, ora torno al mio lavoro. Tutti sorpresi dall'esito, tanto che Repubblica con il suo direttore Ezio Mauro fa un editoriale in prima pagina a raccontare: ora lo chiameremo Matteo senza terra, così viene definito Renzi, Matteo senza terra. Questa è la nuova immagine del presidente del Consiglio e segretario del PD. Man mano che i democratici cedono terreno a Grillo, alla destra, perdendo Nuoro, Fano, Arezzo, Gela, Augusta, Enna, soprattutto Venezia, capitale simbolica di questa sconfitta. Avevamo avvertito che le regionali erano una vittoria numerica ma una chiara sconfitta politica. Ora la crisi del PD, nonostante i successi a Mantova, Lecco, Segrate, Trani e Macerata, è anche numerica e davanti agli occhi di tutti. Negarla è impossibile per 5 ragioni evidenti che poi Ezio Mauro elenca. Matteo senza terra, questa è l'immagine della sconfitta del PD. In tutto esulta Grillo, è un filotto, aveva detto è un triplete ieri mattina, e poi un filotto con le vittorie, 5 ballottaggi su 5. Vedi che il filotto, il triplete, qualcuno lo fa, no? Mauro Meazza, qualcuno lo fa. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Per ottenere quei risultati lì, diciamo che bisognerebbe anche partecipare alle competizioni, se vuoi il paragone calcistico. Sì, questo è vero. Come dire, manco ci siamo iscritti e quindi... Ah, ma vi siete dimenticati? No, più che altro voi vi siete anche noi? Esautorati. Oh, sì, sì, sì. Vabbè, niente, lasciamo stare perché c'è un mercato molto scoppiettante per quanto riguarda il calcio, sì. E invece molto meno scoppiettante per quanto riguarda i mercati finanziari. Non so se hai avuto modo di scorrere il Sole 24 Ore di oggi, e al di là delle questioni appunto dell'andamento di ieri che ha preoccupato un po' i listini, la vicenda greca naturalmente è quella che preoccupa, un nuovo termine diciamo è fissato a giovedì, ti spieghiamo tutto sulle prime pagine, soprattutto ti consiglierei la bussola, cioè la nostra pagina 5 dove spieghiamo com'è che ci dobbiamo attendere il ritorno, lo devo dire, mi spiace anche per Angelino, dello spread. Ah. Ce l'eravamo quasi scordati, eh? Ti ricordi l'estate di 4 anni fa, caro Alessandro, tutti a discettare di spread, ecco, mo ritorna in campo lo spread, non ne sentivamo granché la mancanza, ma insomma tutto questo lo puoi trovare sul Sole 24 Ore di oggi, c'è una bussola appunto che spiega anche perché abbiamo questa situazione. Oh, poi ti volevo dire, oggi siamo partiti con una guida al Jobs Act, ma puoi anche dire riforma del lavoro, sì. Stai sereno pure tu, con in quest'oggi sul Sole 24 Ore nelle pagine di norme e tributi i contratti, cioè i vari contratti che ci sono disponibili con le collaborazioni, le somministrazioni, alcuni tipi di collaborazioni che sono ancora consentiti e altri meno, ma se vuoi capire il tutto ti consiglio naturalmente la lettura di norme e tributi quest'oggi. Oh, cercavo poi se stavi nella classifica dei più ricchi, ma non abbiamo messo nomi oggi nelle pagine di finanza, quindi non ho potuto, perché non ci sei. Ma io vorrei invocare il mio diritto alla privacy, naturalmente ci sono per le sontuose prebende che ottengo grazie a questa chiacchierata mattutina. No, ti volevo segnalare che più che altro gli asiatici hanno superato come possesso gli europei come disponibilità finanziaria, e infatti forse anche tu te ne eri accorto, noi all'Inter ce ne eravamo già accorti, io me ne sto accorgendo, anche tu te ne stai accorgendo. Va bene, due ultimissime cose, c'è molto altro ma il tempo è tiranno. Allora, per innanzitutto i nostri amici professionisti, abbiamo il TFR di maggio. Bene. Basta. Non è importante che tu capisca, ma è chiaro. Ma è una informazione che va data. E poi c'è una, lo so che hai già dato la notizia a mani sul volante. Sì. Però ti consiglierei, come diciamo notizia ad onore, ma mani sul volante, quella del rinvio per IMU e TASI per le PMI terremotate in Emilia. Doveva esserci una proroga per queste, e il problema è che non è arrivato il decreto in tempo in Gazzetta Ufficiale, e sai che oggi si paga, succede. L'abbiamo detto più volte. Allora diciamo che il consiglio a questo punto sarebbe, pagate e poi vi rimborsiamo. A me sembra un po' una notizia, non so se vuoi mettere il solito dialogo del sono cose che succedono, sono cose che capitano. Sono cose che capitano, ecco, chiedo scusa per la citazione sbagliata, invece quella giusta la dico adesso. Traffico! Alessandro Milan, il sospiro sull'informazione. E vabbè, allora, il sospiro effettivamente è la prima cosa che dico quando mi sveglio alle 5. Sveglio alle 5 e faccio... Va bene, allora, Silvio Berlusconi, intanto ringalluzzito dalle elezioni, è pronto con la biografia ufficiale. Verrà scritta da Alan Friedman, quello che parla un po' così, sapete? E si intitola My Way, come la canzone celebre di Frank Sinatra. Prima il nostro Mario Adinolfi, un po' irriverente, ha detto che My Way era la canzone di un moribondo, ma non si dicono queste cose. Comunque, My Way di Frank Sinatra sarà anche il titolo della biografia di Silvio Berlusconi. Notizia invece sull'immigrazione, ce ne sono tante ovviamente, ma ne parleremo alle 8:15. Il faccia a faccia e lo scontro tra Parigi e Roma continua. Perché? Perché la Francia, come ieri ha detto il ministro dell'interno, non non accetta di far passare soprattutto quell'immagine dei migranti che sono abbarbicati sugli scogli da qualche giorno a Ventimiglia. Non devono passare, ha detto il ministro dell'Interno, spetta l'Italia a farsene carico. A Ventimiglia non c'è alcun blocco delle frontiere, semplicemente c'è il rispetto delle regole di Schengen e Dublino, così dice la Francia. E mentre anche il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, dice abbiamo fatto il nostro dovere, stiamo facendo il nostro dovere, ma ora chiedo che non vengano mandati più profughi a Milano, Renzi dice alla Francia: se la Francia non ci aiuta, faremo da soli. Il piano A è quello della cooperazione in Europa, altrimenti il famoso piano B. In realtà per ora del piano B non si sa nulla, non si capisce bene cosa sia, ci sono dei retroscena di quelle che sono le possibilità. Anche oggi Fiorenza Sarzanini insiste su questa ipotesi di piano B, pagina 13 del Corriere. Sarebbe questa l'idea che ha in testa il Presidente del Consiglio, e cioè dare dei lascia passare a tempo determinato, 3 mesi, per i richiedenti asilo che sono in Italia. Con questo lascia passare temporaneo, ecco che le persone possono circolare liberamente entro i confini dell'Unione Europea e quindi passare anche in Francia. Questa potrebbe essere l'idea, la sfida, insomma, di Renzi agli altri stati europei. Tra l'altro, oltre alla Francia, c'è anche la questione dell'Austria. Infatti, il Corriere, con Andrea Galli inviato a Bolzano, racconta di come anche in Austria succeda esattamente quello che sta succedendo al confine tra Italia e Francia. Passport, questa è la domanda che si sente dire sui treni. Schengen o non Schengen? È vietato salire sui treni per l'Austria e poi la Germania. I poliziotti si mettono davanti alle porte dei vagoni. I bianchi possono procedere e i neri, passport, controllare. Poco cambia e cambierà nonostante la fine, la mezzanotte di ieri, della sospensione della libera circolazione al vecchio confine che era stata voluta dai tedeschi in vista del G7 in Baviera. Somali, eritrei, siriani, sudanesi arrivati alla stazione di Bolzano, anche se hanno il biglietto da 68 euro per andare a Monaco di Baviera, lo mostrano agli agenti, ma gli agenti ripetono che ci vuole il passport, no? Il documento per capire chi siano, e altrimenti non partono. Di questo parleremo, ripeto, alle 8:15 con una serie di ospiti. Cosa ha fatto ieri l'Espresso? Ha pubblicato in anteprima, sfidando anche le ire del Vaticano, l'enciclica del Papa che verrà invece diffusa e sulla quale c'è un embargo, come si suol dire in questi casi, è tutta embargata, cioè tutta segreta. In realtà brani di questa enciclica, che uscirà giovedì, sono finiti sul sito dell'Espresso. E allora ecco che ci sono le anticipazioni. L'enciclica verde è già stata definita, e cioè il Papa che dice la terra non è nostra, chi offende la natura fa peccato contro Dio. Questo è il concetto, in realtà è un'enciclica molto complessa, un'enciclica di 200 pagine di testo con citazioni e note, c'è un'introduzione, 6 capitoli e 2 preghiere finali, pubblicate, come scrive Marco Ansaldo di Repubblica, dall'Espresso, già battezzata come enciclica verde, cioè ambientalista. Mancano però 3 giorni alla presentazione ufficiale. Certo, sarebbero comunque tanti riferimenti, scrive anche il Corriere della Sera, all'ambiente nella enciclica di Papa Bergoglio. Staremo a vedere. Oh, che brutta disavventura per questo turista straniero. Racconta Libero, pagina 16. La sedia a sdraio gli trancia un dito medio e ottiene 40 c'è poco da ridere, ragazzi, questo è un vero dramma. Ottiene 40.000 euro di indennizzo, scrive Libero a pagina 16. La sedia a sdraio succede a Vincent Reid, 72 anni, irlandese. Nel 2012 era in uno degli hotel del lago di Garda e aveva la mano sotto il meccanismo, che è crollato improvvisamente e ha avuto questa grave disavventura. Ha ottenuto 40.000 euro di indennizzo, è l'incubo dei vacanzieri, questo almeno racconta Libero a pagina 16. Vabbè, se volete di notizie di estere, c'è il ritorno dei Bush, un altro Bush, speriamo bene questa volta. Il terzo, Jeb Bush 2016, si candida. Jeb 2016 ha lanciato la candidatura. Quindi chi saranno? Jeb Bush e Hillary Clinton? Comunque due dinastie che tentano di riconquistare la Casa Bianca. Staremo a vedere. Intanto eccoci qua sulla carta costa, l'articolo più inutile che scovate sui giornali, a mio insindacabile giudizio ovviamente. Oggi stravince un'intera pagina, o meglio tre quarti di pagina, sul secolo XIX. I reali, questa volta i reali di Spagna. Felipe in Spagna, il re normale, che pensate, ha conquistato la Spagna. C'è un sondaggio secondo il quale il 74% dei sudditi in Spagna ha un'opinione positiva di re Felipe. Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da Interplanet.it, servizi innovativi di telecomunicazioni nel Veneto. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Che devozino via fuoco! Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Siamo qui, le 8:20 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, torniamo a parlare di immigrazione. Il ministro dell'interno francese ieri ha ribadito che tra Francia e Italia il confine non è mai stato chiuso e tutti coloro che sono all'interno delle regole della libera circolazione di Schengen possono passare. Io lo dico da giorni, a costo di apparire impopolare, mi hanno dato anche dell'anti-italiano. Questa, secondo me, è una posizione normale, corretta, dirò di più, giusta da parte della Francia. Non sta sbagliando, a mio modo di vedere. Peraltro è la stessa scelta dell'Austria. Da ieri al confine tra Austria e Italia è stato ripristinato Schengen. Lì sì, era stato sospeso qualche giorno per questioni di sicurezza, visto che c'era il G7 in Baviera con i leader di tutto il mondo. Ebbene, da ieri le limitazioni sono state tolte, si può tornare a circolare liberamente. Ma chi lo può fare? Il Corriere della Sera oggi lo scrive chiaramente che a Bolzano la polizia chiede il passaporto a tutti, o meglio ovviamente lo chiede soprattutto ai neri, quelli che sembrano provenienti dall'Eritrea, dalla Somalia, oppure ai siriani, perché la libera circolazione delle persone sancite da Schengen è un diritto fondamentale per i cittadini dell'Unione Europea. Questo non lo dice mai nessuno abbastanza chiaramente. Se si presenta un siriano, ma così come un giapponese, un americano, un australiano, un eritreo al confine tra Italia e Francia o Italia e Austria, è possibile che possa essere controllato? Hai documenti in regola? Sì, passi. No, non passi. E la Francia sta facendo questo. Cioè le persone che sono in Italia non hanno, sono dei richiedenti lo status di profugo o di asilo politico, ma non hanno il documento in regola. Non sono ancora stati stabiliti come aventi diritto a essere profughi o rifugiati politici e quindi la Francia li respinge. Secondo me è una posizione normale. Poi ci piace il tifo. Il tifo, noi siamo italiani, brava gente, i francesi puzzoni, e va bene, andiamo avanti così. Renzi però ce l'ha con la Francia e anche con l'Europa. Mi sembra ovvio, naturale, doveroso che si trovino delle soluzioni all'altezza della storia dell'Europa. Se così non sarà, noi semplicemente faremo da soli. È il famoso piano B, che al momento è ancora poco conosciuto. Salvini invece ieri era da Lilli Gruber a 8:30 e dice così. Dovrebbero evitare gli sbarchi, dovrebbero difendere le acque territoriali. Io sarei oggi pomeriggio in Marocco, in Tunisia. Io sarei a discutere con le tribù libiche, le 130 tribù che controllano le coste della Libia. Me lo vedo poco Salvini a discutere con le tribù libiche. Comunque, saluto Piero Stellino, editorialista del giornale. Buongiorno Stellino e benvenuto. Buongiorno. Fa bene la Francia, secondo lei, o la mia posizione è troppo dura? La Francia fa i propri interessi, cosa che noi non siamo in grado di fare. Se quelli che stanno venendo al pettine sono i nodi della politica europea dominata dai paesi che hanno forti interessi nazionali come la Germania e la Francia. Noi non abbiamo una politica dell'immigrazione e ne paghiamo le conseguenze. Però si dice in questo momento di grave difficoltà ci vorrebbe più solidarietà umana da parte della Francia, paese che lei conosce, no? Visto che sta anche spesso in Francia. È davvero, manca questa solidarietà umana di fronte a questa situazione? Ma questa storia della solidarietà umana è l'alibi attraverso il quale si giustificano in Italia degli interessi pelosi. Noi abbiamo le frontiere aperte all'immigrazione perché conviene alle due culture politiche che dominano il paese, quella cattolica e quella di sinistra. Cioè le cooperative sia cattoliche sia di sinistra fanno gli affari con gli immigrati e quindi noi teniamo le frontiere aperte, perché siamo un paese che non ha una politica ma che ha semplicemente degli interessi locali che si manifestano contro la politica del paese. Cioè addirittura tenere le politiche, le frontiere aperte servirebbe a qualcuno per fare affari, un grande patto. Assolutamente, diciamo, sì, e patto conviene non, detto, non a qualcuno, però, a chi detiene la cultura politica del paese, cioè la parte cattolica e la parte di sinistra. Però un patto non detto, non scritto, non si potrebbe, diciamo, sancire un patto del genere, sarebbe una cosa molto, molto grave. Beh, non è un patto, però resta il fatto che nei fatti è quello che avviene, cioè noi siamo un paese che è privo di una politica, perché abbiamo come Presidente del Consiglio un signore che è un chiacchierone e non è un uomo politico. Io, Ostellino, le voglio presentare Cecilia Strada, che è Presidente di Emergency. Buongiorno Strada e benvenuta, ben ritrovata. Buongiorno a voi. Allora, anche qui, secondo me, Cecilia Strada ieri su Facebook, o l'altro ieri, ha detto una cosa di assoluto buonsenso, ma voglio dire... Che cosa si sente dire di recente quando uno difende magari le politiche migratorie, a dire bisogna essere più inclusivi? Si dice prenditeli a casa tua, no? Cecilia Strada, quante volte si sente dire, anche qua i messaggi arrivano, prenditeli a casa tua se ti vanno bene queste situazioni, questi profughi, questi rifugiati o clandestini, come le volete chiamare. E lei giustamente ha detto, ma perché io li dovrei prendere a casa mia? Io pago le tasse. E se pago le tasse, uno Stato mi deve garantire che anche in questa situazione sappia gestire queste emergenze, o no? Assolutamente sì, la domanda perché non li prendi a casa tua, a parte essere provocatoria, è anche mal posta. Non c'è necessità di prenderli in casa, non c'è la possibilità, ma soprattutto prendere un profugo in casa è un atto di carità, di generosità individuale, di gentilezza individuale. Queste cose non possono essere delegate alla gentilezza, alla buona volontà dei singoli. Queste cose sono fenomeni mondiali che vanno gestite in modo strutturale da chi lo può fare, cioè il governo, lo Stato, non certamente l'individuo. Che ne pensa però della situazione? Voi di Emergency certamente siete, per immagino, una politica inclusiva, una politica di gestione di questi fenomeni e non chiaramente la si può tacciare di essere una leghista, tutt'altro. Cosa ne pensa però, per esempio, di una Milano, di una Roma trasformata in alcune zone come dei bivacchi di persone? Una politica seria di accoglienza serve non solo a garantire la dignità alle persone che arrivano, serve evidentemente anche a lasciare sicuri, tranquilli e a loro agio i cittadini italiani, che possono, molti in buona fede, sentirsi spiazzati e a disagio nel vedere gruppi di profughi, di migranti accampati qua e là. Questo è assolutamente naturale. Dopodiché la risposta è sempre strutturale. Ieri ero in stazione centrale e insieme a tantissimi milanesi che arrivavano portando chi il cibo, chi il pannolino per i bambini, chi chiedeva come posso dare una mano, c'era anche quello che dice: ma avete visto, fanno i loro bisogni in mezzo alle rose? Sì, certo, proviamo a dargli dei bagni e vediamo che non li fanno più in mezzo alle rose. Quindi una politica di accoglienza dignitosa fa anche la sicurezza, la tranquillità e l'agio dei cittadini italiani. Certo, il governo dice la situazione è critica, è un'emergenza. Ostellino, perché le definisce Renzi un chiacchierone? Non ha il famoso piano B a cui ha fatto riferimento al Corriere della Sera? Questo piano B continua a enunciarlo, però non si sa bene che cosa sia. Cioè finora non abbiamo avuto una politica dell'immigrazione. Cioè noi riceviamo in nome della solidarietà, che è una solidarietà assolutamente pelosa, migliaia di immigrati, poi li lasciamo per la strada a pulire i vetri delle automobili e non li integriamo nel paese. Mentre integrarli nel paese dovrebbe essere la funzione del governo, ma non, siccome non abbiamo il governo ma abbiamo solo un chiacchierone, Lei insiste su questo. C'è da dire che i giornali raccontano che A lei va mai provato a riassumere i discorsi di Renzi? Io ci provo tutte le volte, sì. Non riesco mai a riassumerli. Sono un po' sempre più lunghi nelle enunciazioni, effettivamente. Però pare che il piano B pare sia questo, cioè Renzi vorrebbe sfidare in qualche modo gli stati europei concedendo alle persone che sono qui, i migranti o quelli in attesa di capire se sono profughi o aventi diritto allo status di rifugiati, dei lascia passare temporanei di 3 mesi, così al confine con la Francia non li possono più fermare, per esempio. Queste sono tecnicalità che si decidono di volta in volta. Noi dovremmo definire più chiaramente i nostri interessi. Renzi è in grado di definirli? A quanto pare no. Ecco, definisca quali sono gli interessi dell'Italia, gli interessi politici, economici, sociali, eccetera, e di conseguenza si dia una politica dell'immigrazione. Che manca. Cecilia Strada, manca secondo lei una politica dell'immigrazione seria in Italia? Manca una politica dell'immigrazione europea. Alla domanda di prima, fa bene la Francia al di là dei giudizi morali? La Francia tecnicamente si comporta in modo corretto, perché gli accordi di Dublino dicono che se viene fotosegnalato in Italia, perché se è arrivato in Italia, se è il primo posto, devi stare in Italia. Fermato, devi stare in Italia. Ma quindi correttamente la Francia dice, scusate, la legge dice così. Il punto è che è quella legge che va cambiata, perché è una legge sbagliata, non garantisce, non è né pratica né giusta. Però allora, lo diciamo da giorni, la si cambi, cioè il trattato di Dublino non ce l'hanno imposto con una pistola alla testa, l'abbiamo votato in Parlamento, l'abbiamo accettato, l'abbiamo firmato. Infatti va cambiato e sono tantissime realtà che si occupano, che sono quelle che vedono in faccia il fenomeno migratorio, che dicono va cambiato, bisogna avere un diritto d'asilo europeo, bisogna avere una politica comune europea e, aggiungo, dobbiamo smettere di essere l'Europa soltanto quando si parla di circolazione di merci o l'Europa delle banche, cerchiamo di essere l'Europa dei diritti. Questo sì, però fare la voce grossa in Europa secondo Stellino ce la fa Renzi, perché anche l'altra ipotesi è quella ora di impedire alle navi straniere che soccorrono in mare di portarle nei nostri porti. La Gran Bretagna con Cameron ha detto: noi veniamo a soccorrere i migranti, però ve li portiamo da voi, perché noi non ne vogliamo uno solo in più. Non dovevamo non accettare lì, opporre il problema lì, a dire no, se li soccorrete ve li portate in Gran Bretagna o riportate da qualche altra parte. Adesso forse è tardi, Ostellino, no? No, avremmo dovuto avere la forza per dirlo, ma non abbiamo la forza per dirlo, abbiamo solo le chiacchiere per dirlo. Non la vede ottimistica, insomma, dalla parte. No, ma insomma, dopo 70 anni che abbiamo la Repubblica fondata sul lavoro, sui diritti sociali e compagnia bella, abbiamo il peggior governo degli ultimi 70 anni. Lei dice? Perché c'era tanto con Renzi? Già qualche volta... Era già inadeguato come sindaco, figuriamoci come capo del governo. Come sindaco però era votato, se non altro è stato votato. Ah sì, ma noi votiamo chiunque, abbiamo votato anche Mussolini, quindi figuriamoci. Addirittura, già una volta aveva fatto una sorta di paragone tra Renzi e Mussolini, lo farebbe, lo risolverebbe. Sì, lo rifaccio, perché la sua mentalità è quella. La testa che ha è quella. La testa di Mussolini. Sì, no, avesse la testa di Mussolini sarebbe intelligente come Mussolini, e Mussolini ha vinto non solo perché era furbo come Renzi, ma perché era anche un uomo che aveva un disegno nella testa. Quindi quasi come Mussolini, furbo, ma meno intelligente, insomma. Sì, assolutamente. Il giudizio... cinico e furbo come Mussolini, ma non intelligente, non con un disegno politico, fortunatamente per noi. Un giudizio impietoso. Cecilia Strada, è vero che Emergency sta per arrivare? Già ha detto che ieri eravate in stazione centrale con un presidio per aiutare queste persone, che da una parte io dico sempre è una cosa buona, come quando ci dice che le persone aiutano volontariamente, dall'altra veramente mi fa capire che è un po' incredibile che debbano intervenire o associazioni o ONG, ONLUS o persone, cittadini comuni. Ma sì, in generale io trovo abbastanza preoccupante l'intervento dell'ONG su tutto il suolo italiano, sbarchi o non sbarchi. Emergency lavora in Italia dal 2006, ha aperto un po' l'ambulatorio a Palermo, a Marghera, a Polista, in provincia di Reggio Calabria, ne apriremo un altro a Ponticelli, abbiamo cliniche mobili che girano per l'Italia. Settimana scorsa ero a Palermo, il giorno in cui offriamo protesi odontoiatriche, e la sala d'attesa era sostanzialmente piena di italiani. E questa cosa preoccupa un po', preoccupa. Sì, un evidentemente po'. È un segno di uno Stato che non riesce ad arrivare a garantire il diritto. Ma interverrete anche a Milano? Comunque dovrebbe. Interverremo anche a Milano. Noi ci stiamo occupando di sbarchi già da tempo, lavoriamo a Siracusa da 2 anni, adesso stiamo lavorando anche al molo di Augusto in provincia di Siracusa e stiamo portando il poliambulatorio, un'altra nostra clinica mobile, anche a Milano, alla stazione centrale o dove servirà. Dove tra l'altro io nel salutarvi e ringraziarvi le devo fare questa domanda, perché si vocifera da tempo, non lo so, lei può smentire, ma è vero che potrebbe candidarsi anche lei a sindaco a Milano l'anno prossimo, Strada? Ma no, faccio un altro mestiere. Faccio proprio tutt'altro mestiere. Cioè lo esclude, non c'è possibilità. Vabbè, ma sa, dalla società civile, come si suol dire, può succedere a volte, no? Non la vede? Mi piace il lavoro che sto facendo, mettiamola così. Mettiamola così, per ora, non si sa. Va bene, intanto vi ringrazio. Piero Stellino, editorialista del Giornale, e Cecilia Strada, presidente di Emergency. Io dopo la pubblicità ci collegheremo con Berlino, perché spesso si dice anche lì la Germania viene vista come una delle nazioni più cattive, più dure su questo punto di vista. Sapete che in Germania, così come peraltro in Francia, accolgono molti più profughi, ma molti più profughi o rifugiati politici di quanto facciamo noi in Italia? Lo sapevate? Invece di fare il gran chiasso da tifosi dicendo che i francesi sono puzzoni e noi siamo più bravi, loro ne accolgono il quadruplo rispetto a noi. Magari lo fanno con ordine e rispetto delle regole. State ascoltando un programma offerto da Fujitsu World Tour, 23 giugno Milano. Partecipa anche tu. Eccoci qui, allora 800 24 00 24, il problema dell'immigrazione, ci stanno chiamando in molti anche ascoltatori. Stefano dalla provincia di Roma è con noi. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno Milan. Mica. Innanzitutto condivido in buona parte quello che ha detto Stellino. Poi volevo dire, c'è un sistema molto razionale per sistemare questa faccenda qua. Innanzitutto chiudere le frontiere, perché noi non possiamo ricevere 200 milioni di africani, quindi il problema va risolto in Africa. Offrire agli stati africani un aiuto immediato, nel frattempo sfruttare questa situazione come se fosse una situazione per uscire dalla nostra crescita zero. Cioè questi immigrati, chiamiamoli così genericamente, poi ci saranno dei clandestini da riportare via, eccetera, eccetera. Dobbiamo chiedere i soldi all'Europa, si chiedono i soldi, vengono gestiti dal punto di vista sanitario, ospedaliero, eccetera, eccetera. Sì. E in buona parte, come disse Bergoglio, potrebbero essere gestiti dal Vaticano, che ha migliaia di conventi, parrocchie a livello caritatevole. Stefano, ma come si vanno a chiudere le frontiere? Dai, fatto la Spagna, come ha fatto. E questa cosa potrebbe farla anche la Grecia, potrebbe essere una forma, una risorsa economica, anche per la crescita economica, grazie a questo. Certo, per un periodo limitato di un anno, 2 anni, noi potremmo gestire questa situazione. Nel frattempo si chiede alla Libia di ospitare i tecnici europei per costruire dei campi profughi. Anche lì, Stefano, la Libia è un paese ormai allo sfascio, con due governi, uno riconosciuto internazionalmente, uno no, c'è anche un'infiltrazione dell'ISIS, insomma, è tutto molto bello sulla carta, poi poco fattibile. Angelo da Pavia, buongiorno Angelo. Sì, è caduta la linea. Alessandro da Milano. Buongiorno Milan, a lei e a tutti i radioascoltatori. Ma guardi, io sono come sempre molto sconcertato davanti agli atteggiamenti, ai provvedimenti, alle iniziative che il nostro governo prende. Il punto importante è che in questo momento viene fatto una specie di terrore mediatico, sociale. Noi apriamo i telegiornali, cosa vediamo? Vediamo degli extracomunitari a Imperia, vediamo la stazione di Milano. Quanti sono davanti alla stazione di Milano? 300-400 persone. Ma scusi, io passo tutti i giorni da via Mascheroni, dove c'era l'ex distretto militare, saranno, non so, 300.000, 400.000 metri, e l'ospedale di Baggio, quando in Italia c'erano 5 milioni. A parte Milano, nessuno sa di cosa sta parlando. Comunque lei dice invece, cioè mettiamoli lì, mettiamoli in caserme vuote. Ma queste strutture esistono, sono grandi, si prendono, si portano in una maniera, in prima fase di accoglimento e poi di smistamento. Sì, cioè lei dice si mettano lì invece di farli bivaccare in 300 davanti alla stazione. Beh, effettivamente è una cosa che sorprende anche a me, arrivare alla stazione di Milano, a Roma, o vedere dei bivacchi, sembra un po' una situazione un po'... come dire, di mancanza di gestione basilare. Non so, queste cose succedono in Germania. Voglio chiedere a Roberto Giardina, corrispondente a Berlino per il Quotidiano Nazionale. Roberto, buongiorno e ben ritrovato. No, succedono anche se qui chi arriva, gli stranieri che arrivano sono molto, molto di più, perché appunto l'anno scorso, questi sono dati che cambiano di giorno in giorno perché vengono aggiornati, a quanto pare in Germania sono arrivati 167.000 nel 2014, che sono più del doppio, quasi il triplo rispetto agli italiani. Si parla naturalmente di stranieri che vengono riconosciuti. Ecco, perché rimangono... questo chiariamolo, perché noi siamo abituati al tifo nazionale. Adesso vediamo Italia contro Francia, Italia contro Austria, ma la Germania è il paese europeo che accoglie più immigrati che hanno il diritto di essere profughi o rifugiati di tutta l'Europa. La Francia anche molto più di noi. Questi sono la Germania ha il record europeo, come dici tu, ma poi anche il rapporto alla popolazione. Noi siamo indietro, perché il paese che accoglie di più, questo naturalmente non in assoluto ma in proporzione, è la Svezia con l'8 per mille, la Germania è il 2,5, noi siamo sotto l'1, appena lo 0,1 più della Francia. Cioè, capite? Quindi... questi sono i numeri impietosi. Poi cosa succede? Che però noi li gestiamo così, cioè facendoli bivaccare per le strade, e sembra che siamo invasi dagli immigrati, cosa che non è vera. E poi anche tutti i giornali tedeschi dedicano pagine intere sulla situazione italiana, ma ricordano che quelli che arrivano adesso sono, dicono le fonti tedesche, sono il 10% in più rispetto all'anno scorso. Naturalmente d'estate, quando il Mediterraneo è più calmo, ne arrivano di più, quindi si poteva anche prevedere, dicono i tedeschi. Poi sono meravigliati da questa dichiarazione di Renzi, che dice poi se non va bene adotto un piano B, e però questo piano B non si conosce. Ecco, questo piano B, pare dai giornali, le indiscrezioni sono che potrebbe dare questi permessi temporanei a queste persone in modo che si possano spostare. Ma i permessi temporanei è un provvedimento già adottato passato e l'Unione Europea l'ha bocciato, perché sono tutte cose antiche. Anche questo fatto che noi ce la prendiamo con la Francia e con gli altri paesi, io non voglio fare l'avvocato del diavolo, però è in base agli accordi di Dublino presi certo. Del 2003, ma cioè, certo. non da Renzi, allora c'era Silvio Berlusconi il primo ministro. Non c'era Renzi, però voglio dire, io sto dicendo che la Francia non sta facendo nulla di illegale, nulla di anormale, cioè si stanno comportando in maniera, in base alle regole, voglio dire. Sì, perché se chi sbarca in Italia deve rimanere in Italia, questo è un accordo che abbiamo firmato noi, bisogna anche prevederlo prima, i problemi non si risolvono, si prevedono. Fammi sentire Dieng, che ci chiama da Treviso. Buongiorno Dieng. Sì, buongiorno a tutti. No, io volevo dire, ultimamente a sentire tutti quei ben pensanti che si indignano, sì? Che non sanno già che in Italia sono più di centinaia di migliaia di persone nel sud Italia che sono come dei cani randagi e nessuno dice niente. Adesso che la Francia ferma tutto, che giustamente, perché quando un paese chiama un flusso deve essere in grado di gestirlo. Se non si riesce a gestirlo, lo si lascia là, perché morire per morire, uno muore a casa sua e i suoi cari hanno una tomba almeno dove pregare. È un teatrino che mi fa male come immigrato e come italiano naturalizzato. È un teatrino. L'Italia, perché non può essere sempre una emergenza. Io ormai sono 26 anni e da 20 anni da questa parte l'immigrazione è sempre una emergenza. Gestita così, emergenza, è vero. Non abbiamo delle politiche serie, delle politiche stabilite, delle politiche. Cioè, vedere Dieng, lei da dove viene? Lei dal Senegal. Le ha viste le immagini di quei 25-50 abbarbicati sugli scogli da 5 giorni, somali, Eritrei? Mi riferisco allo Stato italiano, lasciare 25-50 persone sugli scogli da 5 giorni? Ma dai, su. È un naufragio della dignità umana. Perché ovviamente la Francia li respinge, ma la Francia dice non hanno i documenti in regola, perché arrivano lì. Siete già stati definiti profughi? No, siamo in attesa. E allora non potete passare. Non è cattiveria, no? Grazie intanto Dieng. Giardina, è cattiveria. No, non è cattiveria, perché poi gli accordi di Schengen non c'entrano nulla, insomma, perché prevedono il libero transito dei cittadini europei. Appunto. Non c'entrano questi poveri che arrivano dall'Africa, quindi no. Va bene, ma intanto che dobbiamo fare? Questo è. Andiamo a sentire il traffico e poi ci sono ascoltatori. Siamo qua, sono le 8:49 minuti, allora ringrazio Roberto Giardina, corrispondente da Berlino per il Quotidiano Nazionale. Torneremo sul tema immigrazione perché voglio gli ultimi minuti dedicarli alla politica. Ci sono stati tanti voti alle amministrative. Saluto il neo sindaco di Gela per il Movimento 5 Stelle, ha vinto Domenico Messinese il ballottaggio. Buongiorno sindaco e bentrovato. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, Grillo dice abbiamo fatto filotto. Io, il mio parere personale è che il Movimento 5 Stelle, da sempre lo dico, è più efficace sulle amministrative, quindi sui comuni, nelle regioni, più che a livello nazionale. Non so se lei è di questo parere, comunque a livello amministrative avete vinto anche voi a Gela. Nella patria di Crocetta, come avete fatto? Ma noi siamo un gruppo di cittadini che è presente nel territorio già da diverso tempo, che abbiamo cercato di portare avanti delle problematiche sentite dalla popolazione, a cui l'amministrazione precedente è stata abbastanza disattenta. E dice, quindi, siete stati premiati per questo. Diciamo che non solo per questo, ma noi abbiamo fatto un programma con delle proposte serie, con dei progetti che sono importanti per la città, che abbiamo condiviso con tutti i cittadini e siamo stati premiati per le proposte che abbiamo fatto ai nostri cittadini. Sì. Secondo lei è un segnale anche come dire, alla politica nazionale, in questo caso regionale per Crocetta, e anche al PD nazionale? La lettura di alcuni sulle amministrative di tutta Italia, si pensi a Venezia, anche questo, secondo lei? Io posso parlare del caso Gela, e noi abbiamo lavorato per portare avanti delle soluzioni per i problemi che abbiamo a Gela, che da molto tempo sono stati accantonati e non hanno trovato fino adesso soluzione. Sicuramente il nostro primo traguardo, e il traguardo fondamentale, era quello di avere i consensi per governare la città di Gela. Sì. Non voglio andare oltre perché tra le altre cose mi sembra corretto che il comune possa interagire con la regione Sicilia, anche perché pubblicamente ieri in una trasmissione televisiva è intervenuto l'attuale presidente della regione, il quale in modo del tutto chiaro ha detto che sarà vicino al comune di Gela per è il suo comune dove è stato sindaco, quindi non è che può abbandonarlo così. Però sindaco, visto che tutti voi del Movimento 5 Stelle non siete politici di professione fino al momento in cui vi candidate, lei che faceva nella vita? Ci aiuta a capire, lei è sindaco, ma che lavoro faceva? Ma io sono un ingegnere informatico, lavoro per una grossa azienda di telecomunicazioni qui a Gela. Mi occupo di progettazione di reti innovative, di dorsali in fibra ottica e sistemi. Ne ha bisogno di questo la Sicilia, per la verità. Qualcuno dice anche di strade molto spesso, ma anche di fibre ottiche e di banda larga e di connessioni, no? Ecco, quello è il mio mondo, e questo credo che può essere utile, anche perché noi abbiamo una storia settoriale con importante competenze, con assessori che con professionisti riconosciuti a livello internazionale, quindi questo può dare finalmente una risposta ai problemi della società. Come mai in Sicilia, le chiedo questo, ci sono alcuni comuni, il Movimento 5 Stelle diciamo si è fermato in Sicilia? È perché lei si ricorda quando Beppe Grillo insomma fece la traversata siciliana, cioè è più radicato in Sicilia rispetto ad altrove nei comuni il Movimento 5 Stelle? Diciamo che in Sicilia ha avuto dei bei risultati, perché forse la politica in Sicilia non è stata all'altezza di dare delle risposte alla collettività. E quindi la gente si è un po' stufata, dicevo. Diciamo che la Sicilia rispetto ad altre parti d'Italia ha un gap maggiore, e sicuramente ha avuto delle risposte deludenti da parte di questa di chi c'era prima. Critica. E allora, questo può essere un chiave di lettura. Questo sì. E intanto buon lavoro, metteranno alla prova ovviamente anche lei, Domenico Messinese, sindaco di Gela, nuovo sindaco di Gela, che ha vinto nei ballottaggi per il Movimento 5 Stelle. Grazie per essere stato con noi. Noi ci fermiamo qui perché non mi spiace per Davide da Torino, Raul Franco dalla provincia di Varese che ci hanno chiamato, ma non c'è spazio, insomma il tema migranti l'abbiamo affrontato, lo affronteremo anche nei prossimi giorni. Intanto, che dire, c'è Carmelo Lauricella in regia, anche domani ti devi svegliare, tutta la settimana ti hanno sbrandato, ti fanno svegliare tutta la settimana così, è terribile questa cosa per te. Però ci potete seguire ovunque, siamo anche su Facebook, siamo su radio24.it, sul nostro sito ci sono tantissimi contenuti extra nella nostra pagina 24 mattino, trovate tante cose, le sigle, le siglette, le cose, le segreterie telefoniche che oggi non abbiamo spedito, non abbiamo mandato in onda, vabbè, insomma trovate tante cose. Intanto da Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli l'appuntamento è rinnovato a domani 6:30. Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it.